Sono Charlie Quarterman, ho 24 anni e siamo a Giro d'Italia. Benvenuti a Gio... Benvenuti a Gironimo. Amiche e amici del ciclismo, delle cornucopie, della pizza, dei fritti, dei babadi, non so quante altre cose abbiamo così incontrato quest'oggi, ingurgitato quest'oggi e sono tuttora dentro ai nostri corpi, per cui sono parte di una redazione molto allargata quest'oggi, che è composta da me, che sono Filippo Cautz. Io, che sono Leonardo Piccione, altrimenti noto come un fotografo sceso dall'Islanda. Opero Mus, io sono Michele Pelacci. E poi appunto ci sono tanti altri componenti che sono all'interno dei nostri corpi per questo podcast che è Gironimo, un podcast di Al Vento realizzato in collaborazione con Shimano e con le voci di Bidon che avete appena sentito. Siamo sempre lì, nella stanza 207 dell'hotel Giordano Bruno di Nola, dove ancora non è arrivato nessun omaggio. Non mi sembra, non mi risulta. Però ne sono arrivati a Napoli, quantomeno, di omaggi. Già la stessa città di Napoli è un omaggio arrivarci, vederla. Finalmente oggi col sole, perché abbiamo fatto colazione con la pioggia, sembrava, sì. Insomma... Sì, siamo arrivati a Napoli e è venuto fuori il sole, tra l'altro un posto al sole, andava citato oggi, e è stata una giornata bellissima in città, la città poi vestita a festa, come saprete, abbondantemente, e ce la siamo goduta. Però prima di approfondire quella che è stata la nostra giornata a Napoli, ricapitoliamo o introduciamo la tappa di oggi, perché è stata anche una bella tappa, non solo dal punto di vista... come dire, scenografico. Sì, ho potuto goderne di questa scenografia splendida sulla costa amalfitana, per esempio, perché ero in ammiraglia con i nostri amici di Shimano sulla macchina 2 e quindi con Radio Corsa è stato facile, no? Seguire la corsa aggiornamento per aggiornamento. Il primissimo a attaccare dal chilometro 0.1, direi, è stato Alessandro De Marchi, che ha portato via una fuga di 5 con Quarterman, De Lettre, Gavazzi e Simon Clark. È stato per quasi la prima metà intera della tappa Alessandro Verre a Bagnomaria tra fuga e gruppo. Ma non Verre a Bagnomaria è una ricetta dei campioni. No? Bella, molto interessante. Potrebbe. Non è riuscito a rientrare, tuttavia, si è abbastanza cotto il corridore. Ecco, appunto. Esatto. Non l'ho fatto apposta, ma hai colto subito. Il corridore di Marsico Vetere. La fuga va, prende il distacco, ne rimangono due. Da soli Clark e De Marchi percorrono moltissimi chilometri fino ad essere ripresi proprio nelle ultimissime centinaia di metri. Arriva la volata in quartiere Chiaia a Napoli e vince Mats Pedersen. Sì, ci abbiamo creduto che insomma sembrava fatta per De Marchi e Clark, e noi tifiamo per De Marchi perché è un amico, ma tifiamo per le fughe sempre. Poi quando cioè quel momento lì del ciclismo è uno dei momenti più belli in assoluto, no? Quando nell'incertezza, quando la fuga ha un piccolissimo margine sul gruppo e però sembra farcela. Ci è mancato poco. Ma poi sì, tante cose, una fuga di due corridori quasi 37enni. Hanno 4 settimane di differenza, esatto. Da quanto ho capito, sembrato di sentire. Due corridori che erano nettamente i più forti tra i fuggitivi di oggi. Non i più forti nella volata finale, che non hanno disputato ai loro, perché, come ha detto Michele, l'ha vinta Pedersen, l'ha vinta su, vado a leggere l'ordine d'arrivo, su Jonathan Milan, che è arrivato secondo anche oggi a Napoli, terzo si è piazzato Pascal Ackermann, quarto Caden Groves, quinto Fernando Gaviria, che è stato colui che è partito per primo, che ha lanciato la volata dei velocisti sul lungomare Caracciolo, sesto Matthews, settimo albanese, ottavo Marius Mayrhofer della DSM, nono Lorenzo Rota e decimo, ancora una volta in top 10, Simone Velasco. Un grosso peccato per Gaviria, perché secondo me aveva lo spunto vincente oggi, aveva quel quid in più nelle gambe, non si è giocato bene le proprie carte secondo me, hanno preso la sua scia prima Pedersen e poi a ruota di Pedersen anche Milan. Simone Consonni era sulla sua ruota, poi è un po' rimbalzato, ha finito undicesimo, giusto fuori dalla top 10. Una volata, anche questa molto di potenza, molto lunga, e hanno vinto dei potenti. No? Uno solo. Sì, ha vinto un potente, okay. Ma secondo ha fatto l'altro potente, nel senso, sono arrivati davanti, ecco, in questo senso. E, interessante la questione maglia Ciclamino adesso, perché quello che era terzo, prima di questa tappa, ha fatto più punti degli altri, perché l'ha vinta, e quindi Milan, Groves e Pedersen sono tutti lì, che ci pensano al, al violetto. Per il momento chi la veste la maglia Ciclamino? Ciclamilan. Ciclamilan, sempre lui. Sempre lui, ancora una volta secondo, come abbiamo detto. Pedersen invece oggi ha completato il suo personalissimo, come dire, triplete, come si chiama questa circostanza per la quale un corridore vince una tappa, almeno una tappa in tutti e tre i grandi giri, ha un nome. Si chiama, sì, se è a Napoli questa tappa si chiama i 3-3. I 3-3, quindi ha vinto. Che Michele Pelacci non sa chi siano, ma fa niente. L'ha vinta, l'ha messa insieme questa, questa corona, piccola coroncina di vittorie nel giro di pochi mesi, perché ha vinto una tappa all'ultimo tour, una tappa all'ultima vuelta e almeno una tappa in questo giro. E gli è stato chiesto, gliel'abbiamo chiesto cosa è successo e lui semplicemente ha detto: sono cresciuto, sono diventato più adulto, prendo le cose più sul serio e sono arrivato a un livello più alto. Gli sarà anche cambiata la voce, quindi, come a Remco. Come a Remco. Ha avuto lo scatto di crescita anche Pedersen. Una pubertà ritardata, sportiva, in questo caso, che gli ha consentito di appunto fare questo salto. E adesso ci sono tanti corridori nella storia del ciclismo che hanno ottenuto vittorie nei tre grandi giri, ma non so se qualcuno ci è riuscito in meno tempo di Pedersen. Non abbiamo verificato, è una cosa che lasciamo ai nostri ascoltatori verificare se ne avranno voglia. Spero abbiano cose migliori da fare nel resto di questa giornata, ma non so se avete altro da dire su Pedersen. No, semplicemente che se vincesse anche questa maglia Ciclamino farebbe due classifiche a punti in due Grand Tour di fila. Anche questa è una cosa che gli ascoltatori possono guardare, non so se ci è mai riuscito nessuno. Sì, vi stiamo dando molti spunti oggi, mentre tornerei alla fuga e ai due protagonisti della fuga, i più grandi protagonisti della fuga di oggi, che invece hanno dato degli spunti a noi, degli spunti sia di racconto sia emotivi, perché è stato un finale anche molto emotivo con i due che sono stati ripresi proprio a 300 metri dall'arrivo e si sono abbracciati ancor prima, anzi mentre i velocisti disputavano la loro volata. Poi io mi trovavo oltre la linea del traguardo, ovviamente prima non possiamo starci, e ho visto arrivare Simon Clark. Dovete sapere che oltre la linea del traguardo i massaggiatori non sanno di preciso dove si fermeranno i corridori dopo la loro volata o l'arrivo e a volte non sono vicino ai corridori. Quindi i massaggiatori della Israel non erano immediatamente vicino a lui. Clark per alcuni minuti è rimasto da solo ed è rimasto da solo poggiato con la testa sul manubrio e piangeva dirotto e nessuno gli stava intorno. Quello che gli era più vicino ancora una volta era Alessandro De Marchi, che era fermo lì davanti. È arrivato poco dopo De Marchi, si è fermato davanti, però ecco, a me ha colpito molto questa solitudine di Clark, di questo minuto, minuto e mezzo in cui è stato solo, e un uomo di 37 anni, no? Che piangeva come un bambino, e poi è arrivato questo massaggiatore della Israel. Ci sono dei piccoli gesti in questo mondo, no? E lui sapeva che in quel momento doveva lasciar piangere Clark, non doveva passargli un asciugamano o toccarlo, doveva farlo sfogare in questo modo. Poi dopo un po', dopo un minutino, gli ha dato un asciugamano, gli ha messo la mano sulla schiena, è arrivato De Marchi e si sono poi parlati e si sono detti anche delle cose molto belle i due. Incazzato? No. Cioè alla fine penso che abbiamo tirato più che pensavamo. Direi di sì, insomma, più di così. E poi, io dovevo fare così, non avevo altre chance. Ma no, non... Contro di te non ho niente, senza di te non sarò arrivato neanche fino a lì. Uguale io, lei. Poteva esserci un po' di maretta perché in quel finale di tappa giustamente ognuno ha giocato le sue carte tatticamente e per De Marchi l'unica carta possibile era lasciare che Clark partisse perché in volata non avrebbe avuto speranze e quindi si è dovuto mettere a ruota un po' nel corso dell'ultimo chilometro, però abbiamo sentito che insomma queste sono parti del gioco, restano all'interno del gioco ma non vanno a intaccare in alcun modo le relazioni tra i corridori. Nello specifico De McClark, oltre che essere quasi coetanei, erano anche compagni di squadra l'anno scorso, per cui cioè, ho visto anche tanta tanta attenzione anche dal resto della staff della Israel. Tanti sono andati comunque a dare una pacca sulla spalla anche a De Marchi. C'è stata molta vicinanza tra i due. Sì, perché cosa sarebbe potuto succedere se De Marchi avesse tirato fino alla fine? Magari, forse, sarebbero arrivati, Clark avrebbe vinto, De Marchi avrebbe fatto secondo, terzo, quarto, non lo sappiamo, però no, lui ha detto... lo sappiamo, secondo, erano in due. Sì, forse nel frattempo sarebbe caso, arrivato sì. Il gruppo da dietro, non lo sappiamo, però lui ha detto alla mia età, ha detto De Marchi, il piazzamento non conta più. Cioè, o provo a vincere la tappa, o a 37 anni fare secondo, terzo, quarto, che cambia? Ha ragionissima, si va in fuga per vincere, questo è il primo obiettivo di ogni fuggitivo sempre. Va ricordato che Dema Red Passion arriva da 2 anni in Israel, quindi c'è anche questo no sotto narrativa. Ho 2 cose su Simon Clark, perché io ho un po' criticato la fuga di Legola Ceno, per esempio, forse un po' troppo esagerando, ma Simon Clark è un fuggitivo che mi esalta, un corridore che mi esalta, perché lui ha 2 volte, ci ricordiamo Simon Clark, non pensando che quello è Simon Clark. L'attacco di Pogacar ai meno 50 alla Strade Bianche e la volata del 2019, la Amstel di Van der Poel. Clark è sulla ruota entrambi quelle situazioni. Ma ha vinto anche tappe pazzesche, tipo l'ultimo Tour de France, la tappa del pavé. Simon Clark è uno di quelli che potrebbe completare la tripletta che dicevamo, perché gli manca solo il Giro d'Italia. È un corridore affascinante, no? Bellissimo. Sì, io il Clark del 2019 Lancel Goldrider me lo ricordo perfettamente, non so perché non bisognerebbe ricordarselo, me lo ricordo anche perché proprio a proposito di quello che succede dopo corsa, in quel caso, essendo arrivato sul podio, era venuto in conferenza stampa, alle classiche vanno i primi 3, non va solo il vincitore di solito, e la sua squadra, che ai tempi era l'IF, si era dimenticata di andarlo a prendere, per cui è rimasto tipo 40 minuti in sala stampa ad aspettare che qualcuno si degnasse di venire a recuperare. Lì, quando ho conosciuto Simon Clark. È un gran corridore e per concludere il discorso su di lui, a me ha molto colpito questo finale perché ormai non ci sono molti più ciclisti più grandi di me in gruppo, no? E De Marchi e Clark sono 2 tra quelli e vederli coinvolti è stato, come dire, emozionante. Perché il ciclismo poi alla fine ci insegna, tra le tante cose, a non vergognarci delle nostre debolezze, no? Clark in quel momento era debole perché aveva perso. Lui è un vincente, ha vinto tante corse, però oggi ha perso un'occasione, forse una delle ultime della sua carriera, e voleva sfogarsi. Poi si è ripreso, ha aspettato il suo, come dire, si è preso il tempo per sfogarsi e dopo ha soddisfatto i molti giornalisti che volevano parlare con lui. Così come ha fatto anche il nostro amico Alessandro De Marchi, e vi facciamo ascoltare un po' di dichiarazioni fatte all'arrivo. Rimanere sempre là nel gruppo dopo un po' da noi. Oggi onestamente avrei sofferto molto di più quella discesa sulla costiera in gruppo che fare la fatica che ho fatto davanti, quindi tutto sommato meglio così. Qual è la parte mezza piena del bicchiere? Che sono ancora qua, insomma. Insomma, dopo quanti sono? 13? 14 anni? Alla fine oggi so di aver lasciato tutto quello che avevo sulla strada, quindi questa è la cosa più importante. Più che altro mi piacerebbe vedere qualche giovane che sta là fino alla fine, no? Adesso vedere ogni tanto le fughe che mollano a 40 km dall'arrivo mi lascia un po' così, insomma, bisogna sempre provare. Anche oggi, voglio dire, avevamo forse una chance su 1.000.000 ad andare via in 2 così, però sei là, devi provarci. Poi alla fine, insomma, eravamo solo in 5, ogni tanto una fuga da 8-9 non sarebbe male, però... Ah, oggi è il giorno esatto del compleanno della tua maglia rosa, 2 anni fa. Cioè, 11 maggio, è vero. Non ci avevi fatto caso. Adesso mi ci fai pensare. E allora vedi, ancora di più forse mi scoccia non essermi fatto un regalo. Però va bene così. A un certo punto bisogna essere freddi, provare a giocare per la vittoria, no? Quindi col senno di poi, piuttosto che ennesimo, avrei fatto secondo, ma in quel momento lì volevo provare a vincere. La mia unica... un pochino, ci eravamo detti che bisognava a un certo punto aumentare e dare un po' il cambio di velocità alla fuga, ed è quello che è successo. Speravo di riuscire a portarmi dietro Cavazzi, che era un ottimo aiutante, poi non è andata così. E poi sapevamo che bisognava, insomma, andare fino alla fine e giocarsela. un altro secondo posto avrebbe fatto grande piacere, ma non sarei stato completamente soddisfatto se non provavo a vincere, e questa era la carta che dovevo giocarmi, insomma, scommettere, far tirare lui l'ultima parte, fargli lanciare la volata un po' lunga e sperare di riuscire a saltarlo. Questa era la mia chance. Se facevo l'opposto, se partivo in testa io, ero, insomma, servita su un piatto d'argento. La voce che sentite chiedere ad Alessandro De Marchi se il bicchiere, qual è il mezzo pieno del bicchiere, è quella di Enzo Vicennati, che è una persona con cui ci troviamo a condividere spesso la strada in questo Giro d'Italia e le interviste all'arrivo, e anche, devo dire, ci troviamo anche a imparare tanto, visto che è una delle figure, insomma, che hanno preso un ruolo di riferimento nel giornalismo ciclistico, in cui noi non sappiamo mai se facciamo parte o meno. Ultima cosa, pensate se a Napoli in 2 anni di fila avessero vinto De Gendt e De Marchi. È vero, sì, ci ho pensato anch'io, e il secondo pensiero è stato: bisognerebbe riproporla ogni anno una tappa del genere, per tanti, ci sono tanti motivi per renderla, come dire, un appuntamento fisso del Giro d'Italia. Sono d'accordo, se la ripropongono spesso e noi continuiamo a partecipare al Giro d'Italia, io poi devo fare il bendaggio gastrico, ma questo è un altro discorso che non affrontiamo in questo momento. Torniamo alla tappa di oggi. Torniamo, sì, ai protagonisti della tappa di oggi. Protagonista che poi si è staccato prima che la coppia formata da Clark e De Marchi proseguisse la sua avventura. Stiamo parlando di Charlie Quarterman della Corratec, che avete sentito già in apertura di puntata parlare in italiano, perché Quarterman è inglese di Oxford, sta però studiando l'italiano perché corre in una squadra italiana, lo sta studiando con Duolingo. L'abbiamo incontrato stamattina e questa è la prima parte della nostra chiacchierata. Tu parli italiano? Un po', sì, ma no. Lo stai studiando, perché ieri ho visto questo tuo tweet. Sì. Hai fatto 189 lezioni su Duolingo, sì. Però hai paura che adesso con le montagne sarà più difficile. Sì, ma vediamo. Ho cominciato quando mi hanno detto che ero nella squadra. Sì, quando faccio una gara sono stanco e non sarà facile dopo la tappa, ma vediamo. A che livello sei arrivato su Duolingo? 16? Non so, ma voglio fare tutti i giorni, anche quando sono nella squadra, perché è importante di parlare con loro e sì. Senti, volevo chiederti qualcosa sul tuo soprannome, perché tu sei il quarterback. Sì. Ma ha a che fare solo col tuo cognome o hai qualcosa in comune? Sei appassionato di football? No, è solo che con il cognome e anche sono abbastanza grande e muscoloso, quindi è come sono, ma sì, mi piace come nome. Ma hai un giocatore preferito di football? Lo segui, no, niente? Football americano no, non conosco. Calcio invece? Prima sì, ma adesso sono concentrato su bici, anche rugby e ski anche, ma meno calcio adesso. Peccato che non abbia un giocatore preferito, perché io pochi minuti dopo questa intervista, camminando nella folla di Napoli, ho incontrato il sosia spiccicato di Kyler Murray. Era addirittura con la maglia degli Arizona Cardinals. Ma forse era lui? Non era lui, perché aveva evidentemente parecchi anni in meno e una, diciamo, una tricologia differente. Però mi ha stupito questo incontro. Ma possiamo dire che quarterback è uno dei soprannomi più belli, almeno di questi anni? Cioè, il quarterback ha un soprannome per un ciclista, è bellissimo. È molto bello, è un soprannome che mette grandi responsabilità. Certamente. Però con quello che guadagnano i quarterback ultimamente, magari è anche di buon auspicio per il nostro amico, se ormai diciamo subito amico, sì, quarterman. Che è davvero grandicello, no? E lo ricorda un po', l'avrete visto in TV oggi durante la fuga. Però abbiamo continuato la nostra chiacchierata perché volevamo scoprire meglio che tipo di corridore è quarterman. Ci racconti un po' come sei arrivato al ciclismo, come ti sei appassionato a questo sport? Ho cominciato in 2012, quando c'era Wiggins nel Tour de Francia, e anche Olympic come si dice? Olimpiadi. Sì, è quello. E, dopo ho cominciato con il club a Oxford, di dove sono. C'è anche Flavio Zappi, non so se conosci. Io sono stato a Oxford per un anno, ho studiato. Ah, sì? E ho bevuto più volte il caffè nel suo negozio di biciclette. Sì. No? Ok, sì. E lui era appassionato e era sempre con me e mio papà anche. E, abbiamo cominciato così, ho fatto qualche gare e ero contento di farlo così. E, dopo 2-3 anni ero molto più serio e ci siamo, sono molto contento. E che tipo di corridore sei, se vuoi presentarti come ciclista? Cronoman nella fuga anche e per aiutare gli altri nella squadra. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. Niente, mi ero convinto che Duolingo fosse una cosa inutile. Io sono arrivato tipo a 800 giorni di lezione di Duolingo e invece evidentemente sono scemo io, perché quarterback in 160 giorni parla italiano perfettamente. Per imparare che lingua? Il nederlandese. Ah, okay. Qualcosina, sono arrivato a masticarlo, ma io volevo con risultati ben peggiori. Vorrei imparare l'islandese, ma non c'è su Duolingo l'islandese, è una delle lingue non coperte. Neanche dall'inglese? Neanche dall'inglese. Ah. Beh, Kautz voleva flexare la sua perseveranza, l'ha fatto, 800 giorni, sono tipo quasi 3 anni, no? Tantissimo. Sì, ma punito poi da... Ah, beh, bravissimo Charlie, non so se fa surf Charlie, ma sicuramente fa italiano. E concludiamo perché lui ha twittato dopo la nostra intervista, commentando, dicendo, autocitando il suo tweet, quello con le lezioni di Duolingo, dicendo: questa cosa è andata a finire male, o forse no, ho appena fatto un'intervista in italiano, questo sì che è un test. E con la faccina, come si dice, quella faccina con le lacrime dalle risate, ha un nome quella... Bisogna chiedere al giovane. Emoji molto ridente. Emoji molto ridente. Che bel nome. Emoji molto ridente. Comunque test superato. Test superato alla grande per Charlie Quarterman. E quindi abbiamo parlato abbastanza approfonditamente dei fuggitivi, fuggitivi che, ahi noi, sono stati tutti ripresi, alcuni all'ultimissimo momento di questa tappa, e questo comporta una classifica generale pressoché immutata. Sì, praticamente immutata nelle prime, credo, 27 posizioni, quindi non le vado a leggere, c'è sempre Andreas Leknesund in maglia rosa, Remco Evenepoel è secondo a 28 secondi, poi Aurélien Parepent, Joao Almeida, Primoz Roglic, Geraint Thomas. C'è stato qualche problemino, Roglic ha forato, Thomas ha avuto un salto di catena, però nessuno ha perso secondi. Settimo è Alexander Vlasov, ottavo Tom Squins, nono Theo Gegenhardt e decimo ancora Vincenzo Albanese. Non è partito questa mattina Clément Rousseau della Arkea, mentre era in gara, e siamo molto felici di questo, ed ha concluso anche questa tappa Andrea Vendrame, che ieri era rimasto coinvolto nella caduta dopo l'arrivo. Una battuta di Leknesund? Sì, sì, anche un paio, perché io mi sto affezionando a questo Leknesund, simpatico. Sì, sì, sì, ha detto, perché sono girato foto e video di Leknesund in partenza che mangiava la pizza. E quindi è interessante, no? Insomma, un norvegese che viene in Italia, maglia rosa, mangia la pizza, non gliela fai una domanda sulla pizza? Certo che gliela fai. E chi gliel'ha fatta? Io. E gli ho, e gli ho chiesto se sapeva che in una delle località toccate al percorso di gara oggi, cioè Vico Equense, ci fosse l'università della pizza. No, non lo sapeva, ma mi ha detto che ha mangiato... Ma non lo sapevo nemmeno io, se è per questo. Sai chi mi ha detto questa cosa? Mi ha detto Massimo, detto il sindaco in Ammiraglia Shimano, oggi. E sai chi è originario di Vico Equense, la sua famiglia? Ah. Bruce Springsteen. Davvero? Sì. Non lo sapevo nemmeno io, anche questo lo imparo adesso. Ha detto una cosa molto bella, secondo me, Leknesund, parlando del diavolo. È tornato al discorso del suo hobby, no? Sapete, me lo rispieghi che non mi ricordo, i due bastoncini con il cordino su cui si tiene in equilibrio questa specie di clessidra. Ho detto giusto? No, ma mi sembra che lo spieghi bene, non ci hai mai giocato. Io mille volte sono mai riuscito a tenerlo in equilibrio per più di 12 secondi, ma si è capito che sono scarso non solo nelle lingue, praticamente in tutto ciò che faccio nella mia vita, sono costante. E Leknesund, riguardo il diavolo, ha detto che al momento non si allena più, però giocare, tenerlo in equilibrio è come andare in bicicletta, una volta che impari non lo dimentichi più. Niente, volevo dire questa cosa sul diavolo, no, di Leknes. E poi è un ottimo, insomma, viatico, perché andando alle Arti Circensi, Tadej Pogacar, che forse è il ciclista più forte del mondo al giorno d'oggi, poi uno dei, io non userei il forse, ha iniziato con il monociclo, per cui utilizzare strumenti delle Arti Circensi porta poi a vincere tutte le corse del ciclismo, forse. Non vale proprio in assoluto, però insomma Leknes ha fatto bene. Benvenuti al nostro consueto angolo del libro. Oggi siamo in compagnia di Lino Manuco, che ci parlerà del suo nuovo libro I cani inseguono il giro. Ben trovato, Lino. Salve a tutti. Ci parli del suo nuovo libro? Beh, si tratta di una raccolta di poesie sui cani che inseguono il Giro d'Italia. Che bello! Cosa lo ha ispirato? Sono stato ispirato quando ho visto dei cani che inseguivano il Giro d'Italia. Molto interessante. E ci vuole leggere una poesia? Certamente. I cani, il giro, inseguono. Da brividi! Senta questa. Giro, cani. Cani, giro, inseguono. Bellissima! Guardi, se posso io approfitterei della sua disponibilità e le chiederei una terza. Le leggerò la mia preferita. Strada, cani, cani in strada, giro, cani, cani, cani in strada al giro, inseguono. Ma lei è un poeta eccezionale. Grazie, ho avuto anche dei premi nel mio paese. Si vede, eh? Beh, non mi resta che darvi appuntamento in libreria con I cani inseguono il giro, di Lino Manuco. Al prossimo libro! Ma Lino Manuco l'ha fatto in un giorno, l'ha scritto in un giorno il libro di poesia. Cioè, ieri ha tratto ispirazione dai fatti della tappa e ha messo giù un libro di poesie. Non penso si possano scrivere poesie così eccezionali in così poco tempo. Sicuramente è il lavoro di una vita del buon Lino. Però diciamola questa cosa, perché sembra che sia preparata. Invece questo contributo, che ci viene fornito direttamente dalla direzione generale di Gironimo, ci è arrivato da 2 o 3 giorni, era lì pronto per essere inserito, non ce lo spediscono proprio tutti i giorni, ogni tanto ci arrivano delle piccole cartelle e quindi... Quindi era una preveggenza, cioè, vuol da dire parte di Lino Manuco. Cioè, vuol dire che i poteri forti, cioè, c'è chi sa già cosa succederà al giro e tra questi c'è anche Lino Manuco. Va bene, torniamo invece a questa mattina, torniamo alla partenza, torniamo a Napoli, andiamo al Foglio Firme, in Piazza del Plebiscito, dove sono successe tante cose. C'era un pallone che girava, Ebene Pool ha fatto dei palleggi, bandiere, sciarpe. Uno dei più attivi nelle celebrazioni, chiamiamole così, era Thibaut Pinot, che sul bus della Groupama è arrivato con una bandierona del Napoli sventolante. Sembrava particolarmente felice Thibaut Pinot stamattina. Beh, anche perché abbiamo detto che la maglia si chiama azzurra o blu. Sto chiedendo a te, Michele Pelacci. Si chiama azzurra. Non puoi rispondermi con gli occhi. Come azzurra, è un podcast. La maglia del Napoli. La maglia, parliamo del... La maglia del, leader, miglior scalatore che veste. Pinot. Che veste Thibaut Pinot. E quindi, ovviamente, abbiamo chiesto anche a lui riguardo all'estasi calcistica di Napoli. In realtà non gliel'abbiamo chiesto noi, diciamolo, perché di nuovo si condividono gli spazi e questa domanda... È stata fatta questa intervista, l'ho fatta insieme a Daniel Fribe del Cycling Podcast, che è un amico con cui condividiamo un sacco di strada, per cui lo salutiamo e sentiamo la risposta di Pinot. Bah, tu sens qu'ici c'est une ville de passion, une ville de foot aussi, et c'est vrai qu'il y a une atmosphère ici qu'on retrouve presque nulle part ailleurs, donc voilà, c'est... Je suis très content de venir à Naples aujourd'hui. Ouais. C'est le dernier Giro pour toi. Quel mémoire tu vas garder de Giro en général et quel mémoire tu souhaites que les tifosi italiens vont garder de Thibaut Pinot? C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de Giro, ce sera que mon 3e Giro. Moi j'en garde des bons souvenirs, ma victoire d'étape. Et voilà, j'espère encore en créer d'ici les 2 dernières semaines. Il me reste 2 semaines pour créer des souvenirs, donc on va dire que tant que le Giro est pas arrivé à Rome, je vais essayer de construire mes plus beaux moments. J'espère qu'ils sont encore devant moi. Ce maillot va être un bon souvenir pour ta maison. Ouais, j'espère, mais il faut l'avoir jusqu'à Rome, sinon ça sert pas à grand chose. E dice che sa che questa, intendendo Napoli, è un'isola di passione, di calcio soprattutto, e crede addirittura che non abbia eguali altrove, da nessun'altra parte ci siano eguali, è difficile dargli torto, E quindi era molto contento di essere a Napoli quest'oggi. Dopodiché, con il mio splendido francese che avete sentito, gli abbiamo chiesto quali saranno i ricordi del Giro quando a fine anno metterà fine alla sua carriera. E lui dice che non ha fatto molti giri, è solo il suo terzo, ma conserva ottimi ricordi, una vittoria di tappa e spera di crearne di nuovi. Gli restano ancora 2 settimane per creare bei ricordi, da qui a Roma cercherà di realizzare alcuni bei momenti, sperando che i più belli quindi siano ancora a venire. Ma che quindi bello, un Pinot pugnace, è una notizia. È ancora una macchina da ricordi, diciamo. Tra i vari ricordi gli ho chiesto se comunque un bel souvenir da portarsi a casa è la maglia azzurra che indossava quest'oggi. E lui ha detto sicuramente, ma va portata fino a Roma, se no non sarà granché. Questa maglia temporanea non gli interessa. E infine gli abbiamo chiesto come è cambiato il suo rapporto con il ciclismo dopo aver annunciato che questa sarà la sua ultima stagione. Je pense que je suis plus libéré, plus libre. Et j'ai moins de pression, on va dire que j'ai moins de pression. Je profite vraiment de. Je sais que c'est ma dernière saison, donc j'essaie de profiter vraiment de tous les moments pour me faire plaisir parce que l'an prochain c'est fini. Très heureux. Merci beaucoup. De rien. E Thibaut Pinot dice che crede di essere più liberato e più libero. Ha usato entrambe le espressioni. Scusa, a Napoli liberato, è più liberato. Napoli, certo. Gennaro, com'è venuto fuori il nome l'altro giorno? Gennaro Nocerino. Gennaro Nocerino. Chi è questa persona, scusate? È un cantante? È un cantante, sì, un rapper. Ok. Comunque, parleremo anche di musica per giovani in questa puntata. Torniamo a Thibaut Pinot, che crede dunque di essere più liberato e più libero. Sente meno pressioni, come dire, se è la mia ultima stagione posso godermi davvero ogni momento e provare del piacere perché l'anno prossimo è finita. Eh sì. Sembra una nota negativa, invece l'ultima domanda che si sentirà un po' in sottofondo, gli ho chiesto se è felice e lui ha risposto molto felice e lo ha fatto accennando una risata, per cui insomma. E si vede, è felice, si vede, tipo Pinot. Si vede che Pinot è felice. E quando Pinot è felice siamo felici tutti. In generale, direi proprio di sì. E poi a Napoli come si fa a non essere felice? Stavo per arrivare a quello, sì sì, in giornata, come diciamo all'inizio, splendida, una Napoli bellissima. In oggi questa Napoli come si fa a non essere felici? C'era una persona che ho incontrato oggi all'arrivo, diceva l'anno scorso il Giro Napoli era tutta rosa, quest'anno il Giro è tornato a Napoli e Napoli inevitabilmente era tutta bianca-azzurra. E non era bianca-azzurra per via della Giaico, la squadra di De Marchi, che pure condivide quei colori, ma ovviamente per lo scudetto del Napoli, che non ha trasformato la città, però ha aggiunto un livello ulteriore di festa e di vitalità. Napoli oggi era un museo a cielo aperto di vita in tutte le sue sfumature di umanità e adesso abbiamo messo insieme. Io una bandiera l'ho comprata. Sì, l'ho vista, era in macchina. Michele Pelacci non è stato molto d'accordo con questo acquisto, non lo so, ma io l'ho comprata. No, sono stato sorpreso, piacevolmente sorpreso dal vedere che da parasole, no, sul tettuccio dell'automobile c'era una bandiera dell'SSC Napoli con Maradona, col terzo scudetto, bellissimo. Dai. Abbiamo messo insieme una serie di contributi audio. Sì, suoni e incontri da questa giornata in giro per la città di Napoli. Allora, c'è scritto sullo striscione? Sindaco, vogliamo pedalare in sicurezza anche noi. Il problema che abbiamo a Napoli è quello di avere delle scarse piste ciclabili. Tutti i giorni rischiamo noi ciclisti la vita perché non ci sono ciclabili belle, sicure, delineate. Chiediamo al sindaco di avere maggiore visibilità e soprattutto di avere un programma nel tempo che ci permetta di essere dei ciclisti sicuri in questa città. Devo dire sempre questo, 20 anni fa a pedalare a Napoli eravamo in 3, noi abbiamo continuato, abbiamo un po' ribaltato, diciamo, la teoria del fatto che a Napoli bisogna muoversi sempre solo in auto. Tutti noi ci muoviamo in bici e continueremo a farlo e lo vogliamo fare insomma in assoluta sicurezza, anche perché noi siamo un'auto in meno. Anche perché andare in bici a Napoli è bello. Andare in bici a Napoli è bello, si vedono delle cose che normalmente non vedi. Sei nel paesaggio anziché guardare il paesaggio, diciamo, attraverso una scatoletta si sentono i profumi della cucina napoletana, si sente il clima che è sempre meraviglioso, quindi bisogna assolutamente pedalare a Napoli. Profumi della cucina però sono anche una bella tentazione quando si va in sì. E guarda che panza che tengo. Voi siete, vi chiamate? Napoli Pedala, io sono Antonio. Io sono Pasquale. Grazie mille, ciao, buona giornata, buone pedalate. Anche ciao. A te, grazie per quello che fai, bella sta cosa. Questo qui è il video della notte dei festeggiamenti. Sì, che ero qui proprio in piazza Plebiscito. Infatti non so se si vede il casino. Ah, è audio, non si vede comunque. No. Lo vedo io, posso raccontare. Aspetta i festeggiamenti dello scudetto. È stata meravigliosa. È un capodanno. Sì, un secondo capodanno. Io sono sceso zona Piazza San Nazaro, dove c'era una mega zona pedonale, ed è stata una cosa stupenda che da Piazza San Nazaro abbiamo fatto tutto il lungomare, sono arrivato qua a Plebiscito, Piazza Municipio, tutto a piedi per tutta la notte. Ci sono dei racconti mitici di persone che si sono fatti 10 chilometri contenti, non avevano mai fatto tanti chilometri a piedi. Cioè, questo vuol dire che quando metti i cittadini nelle condizioni di godersi la città, capiscono la bellezza di camminare a piedi, incontrare persone, piuttosto che stare imbottigliati nel traffico. Poi il napoletano è fatto per camminare a piedi, perché in ogni momento contemporaneamente fa mille cose, ti tocca, parla al telefono, guarda, fa le foto. In macchina non si può fare, perché mettere... Non si deve fare, soprattutto non si deve fare, ma la gente lo fa e mette a repentaglio la sicurezza degli altri. Solo 10 euro, solo 10 euro. Paolo, ti hanno fregato perché ti hanno presentato come il comicista, un po' comico, un po' ciclista. Beh, guarda, alla fin fine è un danno che mi sono autocreato io qualche anno fa, creando questo nickname con questa crasi, scusami se utilizzo questo termine. Un minuto a tua scelta del tuo spettacolo comico sulla bicicletta. Ma guarda, io penso che una cosa molto comica che sia successa poco tempo, cioè ormai qualche anno fa, è che nel 2019 sono entrato nel Guinness World Record con lo spettacolo comico più alto al mondo, esibendomi al campo base dell'Everest. E credo che in tutto ciò faccia molto ridere che l'anno successivo mi hanno battuto il record due comici nepalesi, perché ho scoperto di essere diventato famosissimo in Nepal per un breve periodo. Ma la cosa assurda è che io al campo base dell'Everest l'ho raggiunto in bicicletta, ovviamente riuscendo a pedalare solo un 30% circa del percorso, perché è un percorso di trekking. Invece loro l'hanno raggiunto tranquillamente in elicottero, ma effettivamente al Guinness World Record non gliene fregava niente di come si raggiungeva il campo base. Hai 30 secondi per far ridere i nostri ascoltatori. Potrei farlo come al solito, anche se non ho con me la mia chitarrina. Volevo presentare il mio ultimo album, che sentite se vuoi dormire supino almeno chiediglielo, e vi faccio sentire proprio giusto la prima canzone con la melodia non accompagnata, che i camionisti quando diventano impotenti non vanno più in tir. È finita la canzone, grazie per l'attenzione. Grazie a te. Paolo Franceschini. Vorrei un babà, ma sono incerto su quale prendere. Io ti consiglio per farci se okay. Hai fame proprio. Ho appena mangiato una pizza, quindi rimarrei più leggero. Okay, accetto il consiglio. Ok, semplice? Sì. Mamma mia. Ecco, ci siamo da Mezzentraglie. Ci troviamo alla via Pignasecca. Pignasecca a prendere Opereomus. Opereomus, sì. Che sarebbe? Sono il piede e la testa del vitello. Ed è un piatto. Un piatto, sì, a Napoli, tradizionale di Napoli, sì. Qual è la cosa più buona di Opereomus? Tutto buono. C'è il piede, il musso, poi c'è la centopelle, che sarebbe questo qua, che è lo stomaco del vitello. Questo è il piede del vitello, questo è il piede del maiale e questo e pepe musso piccante, che è buonissimo, con gelatina e piccante. Finocchiette, sì. E poi limone, mi hanno detto che sale fa... e limone. Sale e limone. Ma lei fa questo piatto da? Allora, noi siamo sempre la terza generazione, stiamo dal 1965. Adesso l'assaggio. Va bene. Grazie mille. E allora, questo contributo valeva come la quota di linea verde ormai quotidiana del nostro podcast. E, dunque, il titolo del campionato italiano di calcio è stato assegnato. Un titolo che si assegnerà tra due giorni è quello dell'Eurovision Song Contest. Stasera c'è la seconda semifinale in cui competono l'Islanda, tra le altre, e l'Austria. E quindi come non parlare di come non farlo? Come non farlo? Andare a cercare un ciclista austriaco e parlare di Eurovision Song Contest. E questo ciclista corrisponde al nome di Lukas Postelberger, tra l'altro compagno di squadra di De Marchi. Let's start in italiano. Introduce yourself in italiano. Io sono Postelberger Lukas, io austriaco, io... al Jaco Alula, mangia pasta tanto. E which pasta? Spaghetti, fusilli? Spaghetti carbonara. Carbonara? Sì. So after the finish in Rome, you're in the right place. For... Exactly, exactly. Yeah. And what's your nickname in the team? Posti. Someone says that you are a big music fan. Someone, yeah. Someone. Yeah, a little bird flying around. Yeah, music I think is a... it's a big part of my life, to be honest. Yeah. I went to musical school, like really? In the secondary one, yeah. I played piano for 8 years almost, and I have a small education as singer. So it was always a little bit of passion, and I'm the DJ on the bus, so it's a wide range of music I'm actually listening to. For example. We are listening, like, yesterday we discovered again Flogging Molly, the Irish rock band, and now at the moment we're listening a little bit more dance and house, just to get the pump a little bit, and I really like actually also listening sometimes to classic music, Mozart or Bach, for example, just to chill and relax and calm down, and it's a big mix. E allora, buon posti. Anche se l'ha detto stampa della squadra, lo chiama Postal Market, ma il buon posti si presenta da solo, lo avete sentito, ci confessa di amare la carbonara e quindi... Però parla italiano, ma fa anche lui, usa anche lui Duolingo. Insomma, parla italiano un pochino, come tanti corridori, perché poi l'italiano per tanti anni è stata una lingua molto diffusa in gruppo, al giro figuriamoci, e niente, abbiamo osservato che con un giro che finisce a Roma la carbonara è l'ideale. Questa cosa lo ha fatto subito ridere ed è successo spesso nel corso di questa intervista di sentire la sua risata, che è abbastanza contagiosa anche questa. Quindi gli abbiamo chiesto della sua grande passione per la musica, perché abbiamo sentito dire che avesse questa grande passione per la musica, e lui dice: la musica ha un grande ruolo nella mia vita, ho fatto la scuola musicale, la secondaria, che in Austria è quella tra gli 11 e i 14 anni. Ho suonato il piano per quasi 18 anni, ho avuto una piccola formazione come cantante ed è sempre stata una mia passione. Sono il DJ del bus, metto una grande varietà di musica, ad esempio ieri abbiamo riscoperto il gruppo rock irlandese Flogging Molly. L'ha riscoperto lui? Riscoperto la squadra sul bus, la squadra, okay. Tutti insieme lo hanno riscoperto. Ci sono momenti in cui ascoltiamo dance e house per pomparci un po'. Dance, esatto. Ma a me piace molto anche ascoltare ogni tanto musica classica come Mozart o Bach per calmarmi un po'. È un bel mix, dice, effettivamente. È un bel mix. E a questo punto, domanda inevitabile, gli abbiamo chiesto qualcosa sull'Eurofestival e se lo segue. I don't know if you follow it or not. Not really, no. We are really busy here with with our stuff going on here. So what about the Austrian names at the Eurovision? Today is a couple of singers called Teja and Selena. Exactly, I know those two girls, they're doing music for passion, and to be honest, I haven't heard their song, but music culture in Austria is growing again, and they are start to playing like real music again, like with instruments and not always synthesizer and stuff like this, so I really appreciate it, and it's always good to hear and see Austrian rock or pop or in general Austrian music getting more attention international. Get us a couple of names of Austrian bands that you like or see. Vanda is a really cool one. And who else is there? Now you ask me too fast. I saw that in a Eurovision like 10 years ago. It was a band from your region, Track Shitters. Ah, the Track Shitters. Ah, well, this is it's a band. Okay. You don't like them. Okay, that's no. They did. It was like a pop for the young generation. It was something different there. So, you're not in the young generation. Not always, no. Not always. It needs to be in the mood, you know. It's like music is for long a part of my life, so it's the newer stuff. Sometimes it's a bit. You need to get used to it, no. Beh, dice no, non lo segue molto perché è molto impegnato con le cose che accadono qui, effettivamente. Dopo a maggio accadono anche altre cose nel mondo del ciclista e corri il Giro d'Italia. Ciò nonostante io ho insistito e gli ho chiesto qualcosa sul duo che rappresenterà l'Austria all'Eurofestival, che sono Teja e Selena. Tu, Leonardo, li conosci? La mia canzone preferita di quest'anno, sì, è Who the Hell is Edgar? Dell'Austria, del duo austriaco bellissimo. E chi diavolo è Edgar? È Edgar Allan Poe. In persona. È dedicata a Edgar Allan Poe. Ma compare in ologramma e interviene. E stasera vedremo nella performance si inventeranno qualcosa. Comunque, Postelberger sa che sono due ragazze che fanno musica per passione, ma dice di non aver mai sentito il pezzo, onestamente. Però la cultura musicale in Austria è tornata a crescere, si è tornati a suonare quella che lui definisce, io non sono d'accordo, vera musica, ovvero con degli strumenti e non solo sintetizzatori o simili. Dice che gli piace, che è sempre bello vedere e sentire musica rock, pop o comunque austriaca in generale, che raccolga interesse. E quindi gli abbiamo chiesto dei nomi, chiaramente, riguardanti la musica austriaca, e lui cita i Wanda. Ma poi non gli viene in mente nessun altro perché gliel'ho fatta troppo a bruciapelo questa domanda. Non era pronto e quindi l'avete sentito scoppiare a ridere. Gli ho chiesto anche di un gruppo che ha già rappresentato l'Austria all'Eurofestival perché viene dalla sua stessa regione, sono i Track Shitters. E lui dice che, insomma, i Track Shitters... Non è un grande fan. Non è che gli piacciono, ma fanno pop per le giovani generazioni, mi dice. E a questo punto gli abbiamo chiesto se lui non si ritiene parte delle giovani generazioni, che sono per esempio quella di cui fa parte Michele Pelacci, ma questo non l'ho detto a Postelberger, e lui dice non sempre, non si ritiene sempre parte delle giovani generazioni, bisogna essere nel mood, e la musica è stata a lungo parte della mia vita, quindi bisogna abituarsi alle musiche più nuove. And what would you like to sing for our podcast? No, I'm not singing anymore. The shower you do it. I'm more whistling. That's not whistling. not singing okay. anymore. You want to whistle? No, thank you. Sorry. Okay. Thanks so much. Thank you. Enjoy your Giro. Thanks. Enjoy the music you will listen during the Giro and perfect. Thank you so much. Ciao. Looking forward. Ciao. E dunque in chiusura inevitabilmente gli abbiamo chiesto cosa volesse cantare per noi per il nostro podcast, ma purtroppo la cosa lo ha molto divertito, ma niente. Dice che non canta più nemmeno nella doccia lui fischietta, ma come avrete sentito non ha voluto nemmeno fischiettare qualcosa per noi, però si è molto divertito e ci siamo divertiti anche noi in questo incontro. E questa è certamente la cosa più importante. Allora, il futuro a breve termine parla di Eurovision, ma il futuro un po' più a lungo termine parla di una nuova tappa del Giro d'Italia, che è la numero 7 ed è una tappa importante. Si arriva in cima al Gran Sasso a Campo Imperatore. Abbiamo chiesto di farci un po' una presentazione, un'introduzione a questa tappa, un abruzzese di quelli proprio... Doc. Sì, che sentiamo anche con molto piacere perché è fermo in questo momento Dario Cataldo dopo una brutta caduta che gli ha comportato grosse conseguenze, però si sta allenando, sta facendo tanta fisioterapia, sta facendo la rieducazione, non so come si dica, per ritornare in sella, e ha voluto rispondere con piacere alla nostra richiesta di presentarci la tappa di domani. Ciao, buonasera, eccomi. Quella è una tappa che fa un avvicinamento alla provincia dell'Aquila simile a quello della tappa dell'Aquila che era stata fatta nel 2010. Beh, l'avvicinamento è simile a quello perché si va sull'altipiano di Roccaraso. Lì su quella piana non passa proprio da quel comune, però lì vicino c'è il borgo di Pesco Costanzo, è un piccolo orgoglio per il territorio che abbiamo, e ci sono anche diversi ristorantini dove provare prodotti locali che soprattutto quelli di montagna, di insaccati, caserecci, così sono veramente di alta qualità. Si arriva verso Sulmona, che per chi conosce è famosissima per i confetti. e quindi non quelli, non soltanto quelli classici con la mandorla, ma hanno un'infinità di tipi e veramente chi passa di lì non può andare via senza provarli. A Calascio lì c'è un castello molto antico, adesso non so proprio nel dettaglio, sarebbe da guardare su Wikipedia, però comunque è molto caratteristico perché è proprio in cima a una montagna, tant'è vero che lì è stato anche girato un film che per chi ha un po' di anni, non per i giovanissimi, se lo ricorda, il film Lady Hawk. E quindi diciamo che questa tappa qui è da visitare, è per visitatori che vanno a cercare un po' quegli angoli nascosti, non tanto per il turismo, quello di massa o di grossi posti. Poi per chi vuole invece qualcosa di più, di veramente casereccio, dove si scollina lì, solitamente in un incrocio c'è sempre una zona con diverse griglie pronte per chi passa di lì, e c'è un furgoncino con un macellaio dove la gente può andare lì, comprare la carne direttamente, quindi bistecche, salsicce, arrosticini, tutto quello che vuole, e andare su queste griglie e farsi una bella grigliata. E poi da lì niente, vabbè, si va verso su, si va verso si continua in quell'altipiano dove la caratteristica è proprio il fatto che non c'è nulla, c'è la pace assoluta, e fino ad arrivare appunto nei 4 chilometri finali dove lì inizia il ciclismo vero. Arrivando in cima non c'è nulla, c'è soltanto il rifugio, e lì la cosa che domina è proprio la natura, cioè guardare comunque lo spazio intorno, le montagne, tutte le vette che sono intorno e il Corno Grande, è veramente uno spettacolo. Lady Hawk, Michele Pelacci? Mi manca. Ti manca, l'ha detto Cataldo, che non è una cosa per le giovani generazioni, e vabbè, però è uno stimolo per come film da vedere quando torni a casa dal giro. Ma signora Falco? Signora Falco, okay. Signora Falco, esattamente. Andiamo avanti, ringraziamo nuovamente Dario Cataldo per questa sua presentazione, che chiaramente ci ha inviato in remoto. E domani cosa succede? Sì, esatto, quindi? Due parole sull'altimetria della tappa, Michele. 218 km da Capua a Campo Imperatore, molto dislivello, soprattutto per la salita finale, perché la salita finale comincia praticamente ai meno 50, quasi meno 40, perché si parte ai 383 metri, poco dopo Bussi sul Tirino, e si arriva che ai... Che bello, Bussi sul Tirino. Molto bello. Puoi continuare. Sai che si è fatto rafting su Bussi sul Tirino? Sì. Questo magari per, diciamo, gli abbonati a Gironimo Plus. E si arriva ai 2123 metri di Campo Imperatore, appunto, GPM di seconda categoria di Calascio. E poi comincia la salita vera, che è dura, è tosta arrivare fino in cima. E domani c'è la neve sul Gran Sasso. Ho visto delle foto, no, che sono circolate con metri e metri di neve ripulita la strada. Sembra bella, sembra tutto fattibile. Però quando hai 4 metri di neve a fianco dei corridori, tutto assume un'aria più, no, leggendaria. Sì, esatto, le foto verranno bene domani. Sì. Ma al di là delle foto, un pronostico sul risultato della tappa di domani? Ne ho uno di cuore e uno di testa. Ok. Quello di cuore ha consentito. Quello di cuore è Thibaut Pinot, quello di testa è che la tappa domani verrà roglificata. Può succedere. Quindi Primoz Roglic, invece vince un Ineos. Mm-hmm. Ma non Theo Gegenhardt. Potrebbe essere Theo, o più facilmente mi viene Geraint Thomas in questo momento. Comunque mi aspetto dei piccoli fuochi. Non mi aspetto la battaglia campale. Ancora presto, è una salita non durissima, molto lunga ma non è durissima. Però comincio ad avere la sensazione che ci sia la voglia di cominciare, perché non c'è ancora stata nessuna forma di resa dei conti. Siamo alla sesta, domani alla settima tappa, insomma siamo a un terzo di Giro d'Italia. E così, ho questa sensazione che le squadre che puntano alla maglia rosa siano vogliose di fare un po' l'appello su chi c'è e chi non c'è. Vedo che c'è anche un po' di nervosismo, abbiamo letto anche dichiarazioni, sì, guerra di nervi anche, per sì, cui domani io mi aspetto qualcosa. Remco ha detto che la Jumbo-Visma e Roglic sono nervosi, È interessante come dichiarazione, perché forse vuole provare a scaricare un po' di tensione che lui ha addosso sugli avversari, che è una cosa che potrebbe funzionare, ma potrebbe anche ritorcerglisi contro. E questo lo vedremo domani. Secondo me ci sarà qualche schermaglietta tra gli uomini di classifica, però poi saranno tutti raggruppati insieme e la tappa può vincerla un nome secondario tra gli scalatori. Mi viene in mente qualcuno della Bahrain, dico uno specifico, Santiago Buitrago. Bello, bellissimo. Domani Remco Evenepoel scalerà il Gran Sasso nella neve con la maglia bianca iridata. Bellissimo. Perché ha messo la maglia iridata, non l'avevamo ancora detto. Oggi finalmente Remco Evenepoel ha corso in maglia iridata. Sì, ha corso in maglia iridata, ha anche fatto dei palleggi e poi, non so, avrà mangiato anche lui una pizza. Noi non abbiamo ancora proceduto alla nostra, al nostro pasto serale. Direi di avvicinarci a questa... esigenza. Ma guarda, esigenza mica troppo. Dopo questa giornata io direi che dopo opere e omusso della tripperia, le zendraglie di Pigna Secca, mi sento abbastanza appagato. E anzi, permettetemi di ringraziare Peppe, che è un nostro ascoltatore, che mi ha guidato un po' in giro per Pigna Secca. Direi che possiamo concludere questo episodio lanciando il contributo conclusivo. Siamo tornati a frequentare una delle auto dell'assistenza tecnica neutrale Shimano, l'ha fatto Michele, che adesso vi introdurrà questa sua sintesi della giornata in auto. Prego. Sì, è stato molto bello. Prima volta che entravo nella corsa, in ammiraglia, vedi tutto quanto, no? La corsa, lo svolgersi delle operazioni, andare avanti, andare indietro. Abbiamo fatto la discesa del valico di Chiunzi ai 1000 all'ora, 1000 sgommate, io ho preso una paura, ho il cuore in gola. Ma è stato bello. Ho incontrato anche l'ascoltatore Vincenzo Piccirillo. E basta. Ascoltiamo questo contributo. A domani, ciao. Stiamo partendo, siamo in macchina con Nicola, meccanico, e Driver Massimo. Stiamo facendo il ciottolato fuori da Piazza del Plebiscito. La giornata sembra bella, sembra tutto perfetto per una bella giornata di sport e amicizia. Ciao. Hai usato un termine molto molto pericoloso, il perfetto. Vediamo, speriamo bene. Sergio, noi siamo dietro a Verre, l'inseguitore. Te fermati dietro al gruppetto di testa, perché tanto questo non rientra, vedrai. Nico. Vai. Siamo dietro Verre, che sta cercando di inseguire un gruppo di 5 corridori con De Marchi davanti. Sta facendo molta fatica, molto movimento di schiena, gambe che girano, ma davanti fanno più velocità, ci è sembrato. Stiamo passando però da molti paesini, Massimo, pieni di colori, pieni di gente. Oltre al rosa ovviamente c'è il bianco e l'azzurro. Cominciata la salita verso il valico di Chiunzi, anche per i corridori della fuga. Noi siamo sempre dietro Verre, che ha un minuto e mezzo dalla fuga, ma 3 minuti sul gruppo, quindi si sta cuocendo a bagnomaria tra i due. Comincia a piovere, si dice Massimo, ma noi questo Verre non possiamo aiutarlo in qualche modo, un bidon con le una scia, no, vero? No, assolutamente. Stavamo parlando giusto un secondo fa della famosa caduta di Pantani sul valico di Chiunzi. Siamo sul valico di Chiunzi e un gatto stava per tagliare la strada ad Alessandro Verre. Strano ma vero. Ovviamente Massimo la guida l'ha evitato. È appena arrivata la notizia che ha forato Roglic quando stiamo lasciando la Torre del Greco per Ercolano, ma la cosa divertente da qua è che la ammiraglia della Israel che abbiamo davanti e che segue ovviamente il fuggitivo Clark ha, diciamo, pescato, si è intrappata nelle bici sopra il tetto dell'ammiraglia, una bandiera di Maradona, e quindi la bandiera di Maradona sventola con le biciclette della Israel. È molto divertente. Ai meno 4 ci ha fatto passare davanti, ai 900 ci hanno deviato verso la zona del traguardo. Nicola, è finita, ora vediamo la tappa, il finale. Ora vediamo il finale, la gara è finita e ora andiamo in albergo, laviamo tutto il materiale, laviamo le auto e poi a riposo. Pizza fritta stasera? Pizza fritta e mozzarella.